Sì, anche. Puoi tradurre la tua domanda? Allora, in fact, je quelques doutes que en flottant, le sommet de l'expérience reste théorique. Là, c'est le débat de ce matin. Parce que c'est même trop clair dans les traités 6 et 7, peut-être un doute traduit et commenté par Pierrado, que le tout se termine par la fusion avec l'un, où il n'y a absolument plus de distinction entre l'âme et l'un, et il y a le phénomène du silence, de la joie, de la lumière, et l'âme ne voit absolument plus rien, elle est devenue la lumière. Avant, elle contemplait la lumière, mais puis elle est venue. Alors, tu veux traduire pour écrire? Oui, je traduis. Allora, non sono d'accordo col professor Bornis che con dice Bergson, che... C'est pas moi, c'est Bergson. Hein, mais... Alors, c'est mieux, je ne suis pas d'accord avec Bergson, qui dit que pour Plotin, l'âme... In italiano. In italiano. So, scusa. Scusa. Non sono d'accordo con l'interpretazione di Bergson che per Plotino l'atto sommo resti teoretico, perché Plotino, come detto a chiarissime lettere nel trattato 38, cioè Enea de Sesta, trattato numero 7, che è stato tradotto e commentato da Pierrado, che il professor Bornis evocava, è detto che c'è un momento in cui l'anima cessa di essere intelletto, non contempla più la luce, ma si fonde con l'uno in uno stato che non è affatto contemplativo, ma fusionale, in cui c'è il fenomeno del silenzio, della gioia, della fusione. E quindi volevo sapere cosa. Ok. Allora, je réponds en français quand même. Je vais traduire. Okay. Ok. Merci. Hein. J'ai oublié de remercier Daniel qui a fait un exploit linguistique et philosophique. La question, c'est pas celle de la contemplation. Peut-être tu veux traduire. Ah, okay. Okay. La question non è quella della contemplazione. Au sens de la théorie ou pas théorie, des deux modes de la conscience ou pas. C'est pas ça la question. La question non è quella della contemplazione, nel senso della teoria, della non teoria, dei due modi della coscienza. Finalement, l'objection de Bergson, elle porte sur la question de l'extase. L'obiezione di Bergson concerne la questione dell'estasi. Parce que ce qu'il critique, c'est l'idée que ce qui dépasse la contemplation extérieure, au fond, c'est une question presque de mots, hein, mais ce qui dépasse la théorie, ce qui dépasse le regard, la distance, la conscience, la contemplation, reste encore de l'ordre de l'extase qui ne se traduit pas par des œuvres et par des actions au dehors du sujet. Il punto è che non è la questione della contemplazione esterna, della coscienza, della distanza, ma piuttosto che il superamento appunto di queste condizioni resta ancora l'estasi, qualcosa che non si traduce immediatamente in degli atti. C'est pourquoi le texte des deux sources est très important, en fait. Ed è per questo motivo che il testo delle due fonti della morale e della religione è molto importante. Parce qu'il dit le vrai critère du mystique. Perché dice che il vero criterio del mistico è che il n'a pas seulement dépassé l'humanité, mais il veut transformer l'humanité. È non solamente il fatto che ha superato l'umanità, ma che trasforma anche l'umanità. E donc il l'accède pas seulement à l'extase, mais à la réforme morale de l'humanité. Il dit même à la révolution morale de l'humanité. E quindi questo significa che non va soltanto verso l'estasi, ma alla riforma morale, verso la riforma morale dell'umanità e addirittura verso la rivoluzione morale. Et donc pour lui la limite de Plotin c'est l'extase. C'est de pas aller au-delà de l'extase. On pourrait dire aussi, il reprend l'image hein, même, de ne pas redescendre dans la caverne. E dunque il limite di Plotino, secondo Bergson, è di fermarsi all'estasi. Si potrebbe riprendere appunto l'immagine platonica e quindi di non ridiscendere nella caverna. C'est Bergson, hein? Moi, ça me confirme dans l'idée qu'à un certain moment, Bergson a préféré Jésus à Plotin. Quand il dit que dans lisant les évangiles, il voit que Jésus est plus que humain. Mais c'est pas seulement Jésus, je pense que même en un sens, c'est Socrate, même Socrate plutôt que Plotin. D'accord, merci. Jean-Marc. Merci pour ton exposé très, très intéressant et très bien fait et très instructif pour moi. Juste deux, trois remarques. Je connais pas le livre de Schenger. Schenger, c'est intéressant. Ouais, je vais aller voir. C'est très intéressant. Alors, juste deux, trois choses. Tu es parti de la question du renversement du statique et du mobile et de la tendance de l'esprit dont parle Bergson à remettre du statique toujours, etc. C'est une pension naturelle de l'esprit, etc. Et c'est vrai, mais quoi que je sois sympathique au projet de Bergson sur ce plan-là, je ne crois pas qu'il ait réussi à faire la chose. Et je crois que ce n'est pas possible de le faire. Je veux dire, par là, moi, je pense que penser, c'est séparé. Et on penser le cinétique en tant que cinétique me paraît une gageure. Je sais que quand on réintroduit le statique dans le cinétique, on perd quelque chose, c'est vrai. Mais est-ce qu'on peut y échapper? Moi, je ne l'ai pas vu. Quand je dis ça, je ne refuse pas la tentative que fait Bergson. J'y suis... favorable en un sens, c'est quelque chose contre lequel on doit lutter, mais je ne crois pas pour qu'on puisse vaincre ça. Attends, il faut qu'il traduise. Oui. Je vais traduire. Allora, il professor Narbonne dice che fa un'osservazione sulla questione del rovesciamento del rapporto tra statico e cambiamento che Bergson mette al centro del proprio progetto filosofico e si chiede tuttavia se, nonostante sia, come dire, abbia un'attitudine simpatica nei confronti di questo progetto filosofico, si chieda se sia effettivamente riuscito Bergson a operare un simile rovesciamento e se più in generale questo rovesciamento sia possibile. E affermando in qualche modo che in ogni caso pensare è separare. En fait, je réponds. En fait, il faut pas se tromper sur ce que fait la philosophie. Non bisogna sbagliarsi su ciò che fa la filosofia. La philosophie fait cette pensée-là de séparation, d'analyse, etc. La filosofia compie questa operazione di separazione, analisi. Mais ce qui fait la pensée non séparée, la pensée qui est supra-intellectuelle. Ma quello che fa il pensiero non separato, il pensiero che è al di là dell'intellettuale, della dimensione intellettuale. C'est pas le texte philosophique qui est conceptuel, qui est analytique toujours. Non è certamente il testo filosofico che è concettuale, analitico sempre. Mais c'est par exemple l'acte du peintre, l'acte de l'écrivain, l'acte du philosophe, mais quand il conçoit son intuition ou son livre, pas quand il l'écrit. Et donc c'est pourquoi, en fait, le philosophe ne peut pas produire l'intuition, puisqu'il est après coup, mais il doit dire, il y a autre chose que ce que je fais. Il y a, quand Shakespeare écrit Hamlet, quand Beethoven compose la 5e symphonie, il n'est pas en train de se séparer. S'il était en train de se séparer, il n'y aurait pas de symphonie, il n'y aurait pas de pièce de théâtre, il n'y aurait pas d'acte libre. Si j'étais en train de me dire, est-ce que je vais m'engager, est-ce que je ne vais pas m'engager, tout le temps, si ça ne conduisait pas à l'acte, il y a un moment où on agit, et là... C'est pas irrationnel, justement. Il y a une pensée suprarationnelle. Et c'est pas non plus la pensée séparée. Donc il faut pas se tromper. C'est pas le philosophe qui fait dans ses livres, dans ses concepts. C'est justement dans l'immanence de l'agir. Allora, non bisogna sbagliarsi, non è evidentemente nel testo scritto del filosofo che non è il filosofo che fa l'intuizione, è l'atto del pittore, è l'atto dello scrittore, è in quel momento appunto che si emerge una dimensione di un pensiero che non è irrazionale ma è soprarrazionale e non bisogna sbagliarsi a questo immanente. Punto. È immanente. E l'autre point che je vais faire remarquer c'est évidemment que quand on pense à la question de l'action, pour les Grecs, on pense à Socrate. C'est par excellence le penseur qui est engagé dans la cité, qui veut réformer et tout ça, et qui a été si important justement de ce point de vue-là comme exemple. Et on pense aussi, par exemple, à l'approche sceptique où ce qui compte, c'est l'acte, l'orthoslo. C'est pas simplement la bonne pensée, mais c'est l'agir. Dans cette approche sceptique antique, qui quand même peut travailler aujourd'hui et qui est très intéressante, c'est de dire que toutes les constructions métaphysiques, finalement, sont très évanescentes et Diogène. mais la seule chose qui reste, c'est la vertu de l'acte vraiment dans l'action. Et c'est l'agir qui tranche. Et en ce sens-là, on rejoint l'acte créateur, etc. Ce qui va assez bien avec ce que tu as dit sur Pierre-Adou. Per quanto riguarda il problema, la questione dell'azione, fa notare il professor Narbonne come evidentemente ci sia in Socrate un po' l'archetipo del pensatore engagé, impegnato nella città stessa, ma come anche nelle scuole ellenistiche, nella figura per esempio del cinico, degli scettici, ci sia in qualche modo l'insistenza sulla dimensione dell'azione, cioè come se ciò che resta dopo aver effettuata la critica della metafisica sia soltanto la virtù dell'atto stesso dell'azione. Oui, c'est vrai, mais tu vois, je dirais la singularité de Bergson, c'est il y a deux erreurs pour Bergson. La singularità di Bergson, secondo Bergson, ci sono due errori fondamentali. La première erreur, c'est de mettre la métaphysique dans le théorique. Il primo errore è di mettere la metafisica nell'ambito del teorico, della teoria. Mais la deuxième erreur, qui est grave aussi en fait, parce qu'elle permettrait de rien comprendre, la deuxième erreur c'est de penser l'action sans sa signification métaphysique. Ma il secondo errore è di pensare l'azione senza il suo significato metafisico. Or le but de Bergson c'est pas seulement d'atteindre l'action, l'acte libre ou bien l'acte du héros. Ora il fine, lo scopo di Bergson è non solamente di attingere la dimensione dell'atto libero, dell'atto dell'eroe. C'est aussi d'en tirer une théorie philosophique. C'est-à-dire de l'acte libre, on tire une philosophie du temps, de l'acte du héros, on tire une philosophie de la morale. Ma anche in qualche modo di derivare da tutto ciò una teoria, per esempio dall'atto libero si deriva una teoria del tempo, dall'atto dell'eroe si deriva una teoria della morale. Donc il faut refuser à la fois les métaphysiques sans action, mais aussi les philosophies de l'action, justement sceptiques, qui disent il y a l'action, mais on ne peut rien en conclure. Bergson dit si, il y a l'action, mais on a aussi une métaphysique. Elle nous donne en prime une métaphysique. C'est un bonus, en quelque sorte. Il y a un cadeau, il y a deux choses pour le prix d'une. Il y a l'action et la pensée. Donc, il faut rifiutare sì la métaphysique, la sensazione, mais anche, come dire, gli scetticismi che sganciano totalmente l'azione dalla dimensione della metafisica. Bisogna in qualche modo tener conto che dell'azione vi è una sorta di bonus, di regalo, che esatto. Concerne appunto la possibilità di produrre una metafisica a proposito di tali azioni. È l'ultima domanda, mi dispiace, ma non abbiamo molto tempo. Rapidissimo. È una domanda sincera che ho da due giorni. La sfera della passività, della condizionatezza, dell'automatismo, della rigidità. Io se penso a chi l'ha descritta meglio di tutti, penso a Kafka. E anche alle nostre vite nella tecnica, no? E mi chiedo come all'interno del pensiero dell'evoluzione creatrice possa essere letta, perché non è l'atto di Beethoven, se pensiamo a Beethoven, cioè possiamo dire che è l'atto puro, libero, creatore, mentre invece qui c'è proprio la rigidità, l'automatismo, la ripetizione. No, per Bergson l'acto libero, l'acto creatore è raro. Perché est-ce qu'il est rare? Parce que la plupart de nos actions sont dans la répétition, dans la vie organique, et il dit même que la plupart des hommes vivent et meurent sans connaître la liberté. Alors, è chiaro che per Bergson l'atto libero, l'atto creatore è qualcosa di estremamente raro. La maggior parte delle nostre vite si conducono in una condizione di ripetizione, di automatismo, e Bergson afferma addirittura che la maggior parte degli uomini, o alcuni uomini, vivono senza aver mai conosciuto la dimensione dell'atto libero e creatore. On peut même dire que pour Bergson, l'obstacle est encore plus grand que les philosophes grecs ne pensaient. Si può dire che per Bergson l'ostacolo è ancora più grande di quanto non pensassero gli stessi filosofi greci. Parce que pour les Grecs, l'obstacle il est dans les contradictions du devenir, les contradictions logiques du devenir. Perché per i filosofi greci l'ostacolo si colloca nelle contraddizioni del divenire. Pour Bergson, l'obstacle il est dans les contraintes de notre vie, de notre corps, de notre action, de notre intelligence. Il est profond, et c'est pourquoi aussi la guerre est un instinct très profond. Perché secondo Bergson, al contrario dei filosofi greci, i vincoli si trovano nel nostro stesso modo di essere, nell'intelligenza, nella pratica stessa dell'essere umano, e è per questo che la vita ed è per questo che la guerra in qualche modo è un fatto strutturale. L'ostacolo non è logico, il è biologico per Bergson. L'ostacolo non è solamente logico, ma è addirittura biologico. Bergson è en fait très pessimiste. Bergson è in realtà molto pessimista. C'est difficile de se libérer. Et c'est difficile de faire de l'art, de la métaphysique ou de la morale. Et donc, en fait, oui, il est un contemporain de Kafka, tout à fait. De Bergson et de Proust. Realmente difficile liberarsi appunto per questi motivi, e non a caso Bergson era un contemporaneo di Kafka, di Proust. Oui, parce que pour Proust aussi, c'est très difficile de se libérer de l'habitude, de se libérer du temps, de la vie, et de retrouver le temps pur. Perché ugualmente per Proust è estremamente difficile liberarsi per ritrovare, liberarsi dalla vita, per ritrovare la libertà, il tempo. En fait, il y aurait un colloque à faire sur Proust et Plotin. Allora, grazie mille, professore. Grazie Rocco, molto bravo. Ci sono delle domande? Sì. Non so come siamo con i tempi, perché sono curioso. Io vado a vedere, ma 10 minuti li possiamo prendere. Okay. Solo un punto. Proverò in italiano. Eliminare il nulla non è la sola condizione, sì, per questa operazione che tu hai magnificamente descritta. L'altra condizione è che il principio è temporale, e quella è la differenza. Nell'evoluzione creatrice, quando Bergson conclude la critica del niente, dice che l'assoluto deve essere temporale. Se non è temporale, il nulla ritornerà. E la ragione perché deve non solo revisionare, ma invertire. Sì. È importante. È molto. Ma l'altra, sì, tutto il resto era splendido. Mi verrebbe quasi da dire di Federico che secondo che forse proprio eliminando il nulla l'assoluto si fa temporale, cioè che l'assoluto era temporale nel stesso, ma per il filosofo di comprendere deve, il nulla è un'idea dell'intelletto umano, certo, indubbiamente. È solo una critica del nulla nel nostro spirito. Sì. Nulla. Sì, sì, ma penso che. È una critica teoretica. Esatto. Però io penso che tu sia d'accordo, perlomeno che sia un argomento su cui si può discutere, sul fatto che la filosofia contemporanea, veramente, se c'è una cosa su cui tutti giurano, è che il nulla non è. Cioè, che il nulla è. Su quello giurano tutti. E che ogni rapporto con l'ente si fonda su un preliminare rapporto con nulla. E se invece è scandalosa, che fa saltare questo. Esatto, ma invece Merleau-Ponty, Sartre, abbiamo accusato Bergson di essere un positivista. Certo. Perché non è piaciuto per nulla. E tutta la filosofia fenomenologica di campo interno. Ah oui. Allora, altre domande? Oppure chiudiamo forse adesso la sessione. Vi ringrazio tutti e ringrazio Federico e Rocco per le loro magnifiche relazioni. Grazie.